ad alta voce. Ignazio Oliva legge L'imperatore di Portugallia di Selma Lagerlöf. Traduzione di Ada Maria Terziani. Le parole del commiato. Poco prima di Natale, Clara Gulla ricevette la notizia che Katrina era agli estremi, e questo ebbe finalmente il potere di strapparla dal pontile. Si incamminò verso casa a piedi, che restava comunque il miglior modo di viaggiare per chi fosse diretto alle Askedalar, e prese la solita vecchia strada attraverso l'Övi, la foresta grande e la cresta dello Snipa. Passando davanti alla fattoria dove una volta abitava il vecchio Björn Hindriksson di Löby, vide lungo la strada un uomo alto dall'aspetto vigoroso e serio, che riparava una staccionata. Questi la salutò con un breve cenno, mentre passava, ma poi restò lì a seguirla con lo sguardo finché si decise a raggiungerla. «Siete Clara Gulla di Skrolika, vero? Dovrei proprio dirvi due parole. Sono Linnart, figlio di Björn Hindriksson», accorgendosi che lei non lo riconosceva. «Ho molta fretta», si scusò Clara Gulla. «Non si può fare un'altra volta? Ho avuto la notizia che mia madre sta morendo». Ma Linnart Björnsson si offrì di accompagnarla per un tratto di strada. Si era proposto più volte di scendere giù al pontile per incontrarla, e ora non voleva perdere l'occasione. Era assolutamente indispensabile, pensava, che lei l'ascoltasse. Clara Gulla non fece ulteriori obiezioni, ma si accorse che l'uomo stentava a tirar fuori quanto aveva da dire, il che non lasciava presagire niente di buono. Linnart si schiarì più volte la voce cercando le parole. «Non credo che lo sappiate, Clara Gulla. Io fui l'ultima a parlare con vostro padre, con l'imperatore, come eravamo soliti chiamarlo». Clara Gulla rispose che non lo sapeva, e intanto affrettò il passo. Pensava che di quel dialogo avrebbe preferito fare a meno. «Ero fuori nel cortile un giorno, l'autunno scorso, e stavo attaccando il cavallo perché dovevo andare al negozio», proseguì Linnart Björnsson, «quando vidi l'imperatore che arrivava di corsa sulla strada. Aveva una gran fretta, si vedeva bene, ma si fermò quando mi vide, per chiedermi se era passata l'imperatrice. Non potei negarlo, e allora gli vennero le lacrime negli occhi, e si mise a piangere da dirotto. Era in cammino verso Bro, disse, ma aveva provato una tale inquietudine che era dovuto tornare indietro. Era arrivata a casa e la trovò vuota. Anche Katrina era partita. Sicuramente dovevano prendere il vaporetto e non sapeva come fare per arrivare a Borg prima che partissero». Clara Gulla si fermò di colpo. «E così l'avete preso sul carro con voi?» chiese. «Sì», rispose il contadino. «Jan mi aveva reso un tempo un grande servizio e ora volevo ricambiarlo. Feci forse male ad aiutarlo?» «Oh no, no, la colpa è tutta mia», disse Clara Gulla. «Ero io che non avrei mai dovuto cercare di allontanarmi da lui». «Pianse come un bambino per tutto il lungo tragitto, seduto sul carro», continuò Linnart Björnsson. «E non sapendo proprio cosa dire per consolarlo, io stavo zitto». «Le raggiungiamo di sicuro, Jan», dissi alla fine. «Non devi piangere così. Questi vaporetti che fanno servizio d'autunno sono sempre in ritardo». Avevo appena detto queste parole che egli mise la mano sul braccio domandandomi se credevo che sarebbero stati duri e crudeli con l'imperatrice quelli che l'avevano portata via. «Quelli che mi avevano portata via», ripeté Clara Gulla sorpresa. «Restai anch'io stupito come voi. E di chi intendesse?» «Ecco, intendeva quelli che erano rimasti in agguato dell'imperatrice per tutto il tempo che si era trattenuta a casa. Tutti quei nemici che Clara Gulla temeva al punto da non aver mai osato mettersi la sua corona d'oro e neppure parlare della Portugallia, e che ora si erano gettati su di lei e l'avevano portata lontano, facendola prigioniera». «Dunque è così?» esclamò Clara Gulla. «Sì, proprio così, Clara Gulla», rispose Linnart Björnsson con enfasi. «Capite, Clara Gulla? Vostro padre non piangeva perché era stato abbandonato e lasciato solo, ma perché credeva che voi foste in pericolo». Linnart Björnsson aveva stentato un poco a pronunciare le ultime parole. Sembrava che gli volessero restare ficcate in gola. Forse pensava al vecchio Björn Hindriksson e a se stesso. Proprio quell'episodio della sua vita gli faceva ben comprendere il valore di un amore che non viene mai meno. Ma Clara Gulla non capiva ancora. Da quando era tornata a casa, aveva pensato al padre soltanto con avversione e spavento. mormorò qualcosa fra sé, come a dire che suo padre era pazzo. Linnar Björnsson udì le sue parole e ne fu amareggiato. «Non so se Jan era proprio così pazzo», replicò. «Io gli dissi di non aver visto nessun carceriere intorno a voi». «Ma come, mio caro Linnar Björnsson?» rispose lui allora. «Non li avete visti farle la guardia quando è passata di qui? Erano orgoglio, durezza, erano vizio e lussuria. Erano tutti quelli contro i quali dovrà combattere laggiù nel suo impero». Clara Gulla si fermò e, volgendosi a lui, disse: «E allora?» «Gli risposi che quei nemici li avevo visti anch'io», replicò bruscamente Linnar Björnsson. Clara Gulla si mise a ridere. «Ma mi pentì subito di aver detto così», proseguì il contadino, «perché allora Jan scoppiò a piangere ancora più disperato. «Oh, caro Linnar Björnsson, prega Iddio», disse, «prega Iddio che io possa salvare la ragazza da ogni male. Non mi importa di quel che sarà di me, purché lei sia aiutata». Clara Gulla affrettò ancora di più il passo, senza dire niente. C'era qualcosa dentro di lei che incominciava a stringerle e a lacerarle il cuore, ma si costrinse a dominarsi. Se ciò che vi era nascosto fosse scoppiato fuori, non sapeva come avrebbe resistito. «Già», disse Linnar Björnsson. Furono praticamente le sue ultime parole di addio, queste. E non passò molto che dimostrò che intendeva davvero quel che aveva detto. «Non dovete assolutamente credere, Clara Gulla, che Jan si sia gettato nel lago per sfuggire al suo odore. Fu soltanto per salvarvi dai nemici che si buttò a raggiungere il vaporetto». Più in fretta, Clara Gulla camminava sempre più velocemente. Tutto l'amore che il padre aveva avuto per lei dal principio alla fine cominciava ad apparirle. Ma cercava in tutti i modi di sfuggire. Non poteva sopportare quella rivelazione. «In questo comune ci conosciamo poco l'un l'altro», continuò Linnar Björnsson, standole al passo senza il minimo sforzo. «Ci fu molto malvolere verso di voi, Clara Gulla, subito dopo la morte dell'imperatore. Anch'io da parte mia non vi ritenevo degna di ricevere le sue ultime parole e i suoi ultimi pensieri, ma ora ci siamo ricreduti. Ci è piaciuto che Clara Gulla stesse laggiù al pontile ad aspettarlo». Clara Gulla si fermò. Aveva le guance in fiamme e gli occhi scintillavano di collera. «Io sto lì soltanto perché ho paura di lui», disse. «Non vi siete mai voluta mostrare migliori di quel che siete, Clara Gulla. Lo sappiamo. Ma capiamo forse meglio di voi stessa quel che sta nel fondo di quell'attesa. Anche noi abbiamo avuto dei genitori. E non abbiamo agito rettamente verso di loro, neanche noi». Clara Gulla era così incollerita che avrebbe voluto dire qualcosa di terribile, ma non lo fece. Avrebbe dovuto stare a piedi davanti a lui per farlo tacere, ma non ne riuscì neanche questo. Allora non vide altro espediente che voltarsi e andarsene di corsa. Linnar Björnsson non la seguì. Aveva detto quel che voleva dire, e non era scontento del lavoro di quella mattina. La morte di Katrin. Quando Clara Gulla entrò nella casetta di Skrolika, Katrin giaceva nel suo letto, mortalmente pallida e con gli occhi chiusi. Sembrava che fosse già la fine, ma appena Clara Gulla le fu vicina e le accarezzò la mano, aprì gli occhi e si mise subito a parlare. «Jan mi vuole con sé», mormorò con grande sforzo. «Non mi tiene rancore per averla abbandonato». Clara Gulla trasalì. Cominciava a capire perché la madre moriva. Lei, che era stata fedele per tutta la vita, non si dava pace di aver ingannato Jan alla fine. «Non dovete proprio stare a tormentarvi per questo», disse Clara Gulla. «Sono stata io che vi ho costretta a partire». «Sia come sia. È stato così doloroso pensarci», disse Katrin. «Ma ora tutto si è risistemato tra noi». Chiuse di nuovo gli occhi e rimase immobile. Come un bagliore di felicità si diffuse sul suo viso consunto, ma presto riprese a parlare. C'erano cose che doveva dire ad ogni costo, o non avrebbe avuto pace. «Non essere così in collera con Jan perché ha cercato di raggiungerti. Lui voleva soltanto il tuo bene. Tu non sei più stata contenta da quando vi siete separati. Questo lo sapeva. E lui neanche. Siete usciti di strada, ognuno per il proprio verso. Clara Gulla sapeva che Katrina avrebbe detto qualcosa del genere e si era premunita in anticipo. Ma le parole della madre la commossero più di quanto avrebbe creduto e cercò di darle una risposta buona. «Penserò a papà com'era un tempo», disse. «Vi ricordate come eravamo sempre amici allora?» Parve che Katrina fosse appagata da quella risposta, poiché sembrò rasserenarsi di nuovo. Certo, non si era proposta di dire altro, ma improvvisamente si mise a sorridere. Sorrise alla figlia con grande tenerezza. «Sono così contenta, Clara Gulla. Sono così contenta perché sei ridiventata bella», disse. Quel sorriso e quelle parole fecero perdere a Clara Gulla ogni dominio di sé. Si umile letto e si mise a piangere. Era la prima volta dal suo ritorno a casa che scoppiava in un vero pianto. «Io non so come potete essere con me quella che siete, mamma. È colpa mia se voi morite ora. E anche della morte di papà sono io la colpevole». Katrina continuò a sorridere e le sue mani accennarono una lieve carezza. «Siete così buona con me, mamma. Siete così buona con me», disse Clara Gulla, piangendo e singhiozzando. Katrina le prese con forza la mano e si sollevò sul letto come per poter dare un'ultima testimonianza. «Tutto quello che c'è di buono in me l'ho imparato da Jan», disse. Dopodiché si lasciò ricadere e non disse più nulla di comprensibile. Il travaglio della morte incominciava. Il mattino seguente spirò. Ma durante tutta l'agonia Clara Gulla rimase piangendo ai piedi del letto. Stava lì e riversava nelle lacrime tutta la sua angoscia, i suoi sogni febbrili, il peso delle sue colpe. Non poteva più arrestare quel pianto. Il funerale dell'imperatore. Katrina di Skrolica doveva essere seppellita la domenica prima di Natale, e quella domenica di solito non c'è tanta gente in chiesa, perché i più vogliono riservare le loro visite alle grandi solennità festive. Ma quando coloro che seguivano il piccolo corteo funebre dalle Askedalar sbucarono con i loro carri sul sagrato tra la chiesa e il municipio, rimasero quasi confusi, perché una tale folla, come quella che si era radunata lì quel giorno, si vedeva sì e no una volta all'anno, quando veniva a predicare a Svarzio il vecchio prevosto di Bro, oppure quando c'era l'elezione del pastore. Va da sé che non era per accompagnare la vecchia Katrina alla tomba che era accorsa tutta quella gente, ma doveva esserci qualche altro motivo. Forse ci si attendeva la visita di qualche grosso personaggio, o la predica di un pastore diverso dal solito. Nelle Askedalar si viveva così fuori mano che potevano accadere tante cose nel comune senza che se ne avesse notizia. Il corteo si diresse verso il consueto posto dietro al municipio, dove tutti scesero dai carri. C'era anche lì altrettanta folla che sul sagrato, ma, a parte questo, non si notava niente di particolare. Erano sempre più sbalorditi, ma non andavano contando mai che cosa succedesse. Chi segue un funerale è meglio che se ne stia per proprio conto e non si metta a chiacchierare con quelli che non prendono parte al suo cordoglio. La bara fu calata dal carro che l'aveva trasportata fino alla chiesa e deposta su un paio di cavalletti neri allestiti in precedenza fuori dal municipio. Lì doveva aspettare, insieme al seguito, che le campane incominciassero a suonare e che il pastore e il sacrestano fossero pronti ad accompagnarla al camposanto. C'era un tempaccio del diavolo. La pioggia scrosciava a rovesci sferzanti e martellava sul coperchio della bara. Un fatto era certo. Qualunque cosa avesse attirato lì tanti fedeli, non erano sicuramente usciti di casa per il bel tempo. Ma era come se nessuno si preoccupasse della pioggia e del vento quel giorno. La gente stava lì, all'aperto, silenziosa e paziente, senza cercare riparo né in chiesa né nel municipio. I sei portatori e gli altri che si erano radunati intorno a Katrina si accorsero che c'era un'altra coppia di cavalletti, oltre a quella su cui posava la sua bara. Doveva evidentemente aver luogo anche un altro funerale. Strano che neanche di questo avessero sentito parlare. E apparentemente non c'era nessun corteo in arrivo. E fra l'altro a quell'ora così avanzata avrebbe già dovuto trovarsi davanti alla chiesa. Verso le 10 di notte, quando era ormai tempo di andare al cimitero, la gente delle Askedalar si accorse che tutta la folla si spostava verso Darnold di Prasterud, una fattoria qualche minuto dalla chiesa. Soltanto allora notarono quel che era loro sfuggito. Che rami di abete erano stati sparsi dal municipio fino alla casa padronale e che due abeti erano posti ai due lati dell'ingresso. Era dunque lì che c'era un morto. Ma non capivano ancora come mai non avessero sentito parlare di una disgrazia in una fattoria così conosciuta. E in più non erano esposti neppure i drappi, e neanche le lenzuola alle finestre, come consuetudine in una casa a lutto. A un tratto, comunque, si spalancarono le porte d'ingresso, e ne uscì un corteo funebre. August Darnol lo precedeva con in mano un bastone adorno di foglie, e dietro di lui venivano i portatori con la bara. Man mano si accodarono anche i vari gruppi di gente rimasta ad aspettare fuori dalla chiesa. Era dunque per quel morto che erano venuti così in tanti. Portarono la bara verso il municipio e la deposero alla destra dell'altra che già vi si trovava. August Darnol spostò i cavalletti in modo che i due feretri fossero fianco a fianco. La bara appena arrivata non era nuova e lucida come quella di Katrina. Sembrava già aver affrontato ben altri scrosci anche prima di quel giorno e doveva essere stata trattata con poca cautela a giudicare dai graffi e dalle ammaccature. Fu con un profondo sospiro che la gente delle Askedalar incominciò a capire. Non era un parente di August Darnol che giaceva in quella bara. Non era neanche per un gran personaggio forestiero che quella folla era venuta alla chiesa. Gli sguardi di tutti si puntarono su Clara Gulla, per vedere se anche lei aveva capito. E dalla sua espressione non ci furono dubbi. Per tutto quel tempo era rimasta pallida e piangente accanto alla bara della madre, ma dal momento in cui aveva riconosciuto l'altra bara, la bara che veniva da Darnol, parve trasportata dalla gioia. Come avviene quando si ottiene ciò che si è lungamente sospirato, ma presto si calmò. Con un sorriso doloroso, carezzò dolcemente due o tre volte il coperchio della bara. «Eccoti. Più fortunata di quanto mai avresti potuto sperare», sembrava voler dire alla morta. August Darnol si avvicinò a Clara Gulla e la prese per mano. «Non hai niente in contrario, Clara Gulla, che noi abbiamo disposto così, vero?» le chiese. L'abbiamo trovato soltanto venerdì. E ho pensato che in questo modo per te sarebbe stato meno penoso. Clara Gulla non rispose che qualche parola appena percettibile, tanto le tremavano le labbra. Grazie. È la cosa migliore. So che non è tornato per me, ma per la mamma. È tornato per tutte e due, Clara Gulla, come puoi vedere, disse August Darnol. La vecchia padrona di Falla, che aveva 80 anni ed era tutta curva dai tanti dolori, era venuta anche lei per onorare Katrina, che per lungo tempo era stata sua dipendente e amica fedele. Aveva portato il bastone imperiale e il berretto che le erano stati riconsegnati. Era sua intenzione deporli nella tomba di Katrina. Pensava che le avrebbe fatto piacere avere accanto a sé qualcosa che le ricordasse Jan. Clara Gulla le si avvicinò e la pregò di darle i tesori imperiali, quindi appoggiò lei stessa il bastone alla bara di Jan e mise il berretto sul pomo. La gente capì che voleva farsi perdonare di avergli impedito di abbigliarsi da imperatore dopo il suo ritorno a casa. Era un tentativo di rimediare, per quel poco che poteva. Non è un granché ciò che si può fare per un morto. Aveva appena avuto il tempo di mettergli il bastone che il campanile della chiesa incominciò a suonare, e contemporaneamente il pastore, il sacrestano e lo scaccino uscirono dalla sacrestia e si posero alla testa del corteo funebre. La pioggia era caduta a scrosci per tutto il giorno, ma per fortuna era cessata proprio mentre il corteo si disponeva in fila, prima gli uomini e poi le donne, per accompagnare i due vecchi al cimitero. I presenti avevano come l'aria sorpresi da trovarsi lì. Nessuno provava un vero e proprio dolore, né il particolare desiderio di onorare uno dei morti. Era soltanto che quando si era diffusa nel comune la notizia che Jan di Skrolik era stato ritrovato proprio al momento giusto per essere sepolto nella stessa tomba di Katrina, a tutti era sembrato un fatto così bello e così straordinario che avevano voluto assistere. Avevano voluto assistere per vedere i due vecchi sposi riuniti nella morte. Ma mai avrebbero creduto di essere in così tanti ad aver avuto lo stesso pensiero. E sembrava anche uno scompiglio un po' eccessivo per due persone così povere e umili. I presenti si guardavano l'un l'altro un po' imbarazzati, ma dal momento che erano lì non potevano far altro ormai che avviarsi tutti insieme al cimitero. Dovettero anche sorridere fra sé, pensando a quanto si sarebbe rallegrato l'imperatore di Portugallia. Due uomini invece di uno, perché c'era anche quello che veniva dalle Askedalar, marciavano davanti alle due bare e dietro, nel corteo funebre, seguiva quasi tutto il comune. Non avrebbe potuto essere meglio se lo fosse organizzato da sé, il funerale, ma si poteva poi essere tanto sicuri che non fosse tutta opera sua? Era diventato così straordinario dopo la sua morte il vecchio imperatore. L'aveva certamente fatto apposta di lasciar lì sua figlia ad aspettarlo invano per tanto tempo, per poi riemergere dagli abissi proprio al momento giusto. Non c'era il minimo dubbio. Quando furono tutti arrivati davanti alla larga fossa e vi furono calate le bare, il sacrestano cominciò a cantare il salmo. «Io vado verso la morte». Il sacrestano Svartlik era diventato vecchio ormai. Il suo canto ricordò a Clara Gulla quello di un altro vecchio che lei non aveva voluto ascoltare. Quel ricordo le diede una fitta di dolore. Si premette le mani sul cuore e chiuse gli occhi perché non rivelassero la sua sofferenza. Mentre stava lì a occhi chiusi, rivide davanti a sé suo padre. Lo rivide come era stato durante la sua giovinezza, quando erano così buoni amici. Riconobbe il suo volto, come le era apparso una mattina dopo una notte di bufera, quando la strada era ostruita dalla neve ed egli l'aveva portata in braccio fino alla chiesa. Lo riconobbe com'era quel giorno in cui si era recata in chiesa col suo vestito rosso. Nessuno avrebbe mai potuto avere un'espressione tanto felice e tanto buona come quella di Jan quella volta. Poi la felicità era finita per lui, ma anche lei non aveva più trovato una vera pace. Cercò quindi di trattenere quel volto davanti agli occhi. Le faceva bene. Si sentiva invadere da un'ondata di tenerezza guardandolo. Quel volto non voleva che ne... Che paura poteva farle? Non era che il vecchio, mite Jan di Skrolica. Non voleva affatto farsi suo giudice. Non voleva attirare il castigo e l'infelicità sulla sua unica figlia. Provò una grande serenità. Le sembrava di essere entrata in un mondo di amore, ora che riusciva a vederlo come era prima. Come aveva potuto credere che la odiasse? Non voleva che perdonarla. Ovunque andasse, dovunque si fermasse, il padre voleva soltanto esserle vicino e proteggerla. Era il suo solo desiderio. Ancora una volta sentì quell'immensa tenerezza sgorgarle dal cuore come una grande ondata e colmare tutto il suo essere. E al tempo stesso seppe che tutto era tornato come prima, che lei e suo padre erano di nuovo una cosa sola. Ora che lo amava, non c'era più nulla da espiare. Clara Gulla si risvegliò come da un sogno. Mentre contemplava il caro viso di suo padre, il pastore aveva celebrato il rito funebre. Ora stava rivolgendo due parole alla gente. Li ringraziava di essere venuti così numerosi a quel funerale. Non era, diceva, un uomo importante e illustre che accompagnavano al riposo eterno, ma era forse l'uomo che aveva posseduto il cuore più caldo e più ricco del circondario. A queste parole i presenti si scambiarono di nuovo delle occhiate, questa volta però contenti e soddisfatti. Il pastore aveva ragione. Era proprio per questo che erano venuti al funerale. Infine il pastore si rivolse anche a Clara Gulla. A lei che aveva ricevuto dai genitori un amore più grande di ogni altro che lui conoscesse, e tale amore, disse, doveva trasformarsi in benedizione. Allora gli occhi di tutti quanti si volsero verso Clara Gulla, e rimasero stupiti di quel che videro. Era come se le parole del pastore si fossero già realizzate. Clara Fina Gulleborg di Skrolica, che aveva avuto il suo nome dal sole stesso, era lì davanti alla tomba dei suoi genitori. E splendeva, come trasfigurata. Era bella come quella domenica in cui si era recata in chiesa con il suo vestito rosso. E forse ancor più bella. Ignazio Oliva ha letto L'imperatore di Portugallia di Selma Lagerlöf. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Adatta la voce chiocciolarai.it.